Salve a tutte e tutti, ascoltando Radio Wombat, questa è Uru, quindi siamo di nuovo a parlare e ascoltare i suoni del continente africano. Vi ricordo che potete ascoltare la radio non soltanto su wombat.noblogs.org in streaming, ma anche sul 1359 in onde medie, in AM. Mi raccomando, seguiteci e fateci sapere da dove si prende e dove no. Sì, eccoci qua, 49esima trasmissione, 49esima puntata di Uru, Suoni, Musica e Notizie. Dal continente africano, una puntata in cui proporremo i suoni, la musica del Nord Africa e in particolare delle voci femminili del Nord Africa. Il Nord Africa in questo caso intendiamo tutta la fascia appunto del continente africano situato sopra l'Africa subsahariana, e quindi partendo da ovest, Marocco, Tunisia, Algeria, Sudan, ma anche una parte, diciamo, che è situata direttamente nel deserto, nel Sahara, e quindi Mauritania e Saharwi, Repubblica Sahariana, che per noi appunto rappresenta un luogo importante, non solo un luogo in cui che sta lottando per l'indipendenza e che noi consideriamo appunto come un paese a sé, no, un pezzo di terra dominato, oppresso dallo stato marocchino. E la particolarità di questa musica è che appunto è una musica situata a un crocevia, diciamo, in cui si mescolano, si incontrano e talvolta anche si scontrano, diciamo, suoni e anche strumenti musicali provenienti dal Maghreb, e quindi arabeggianti sotto certi aspetti, con quelli provenienti più dal sud, cioè dall'Africa più propriamente nera, ecco, da questo punto di vista. E il primo pezzo che vi facciamo ascoltare è di una cantante mauritana, Maluma, che è una cantante, appunto, una cantautrice, ma anche molto impegnata dal punto di vista sociale e politico. E tant'è che la sua prima canzone si intitolava, proprio la canzone in cui ha esordito, la prima canzone incisa si intitolava Habibi Abethiou, che criticava duramente il modo in cui le donne sono trattate dai loro mariti, ed è stato un successo immediato non solo nel suo paese, ma in generale in tutta quella zona dell'Africa, e che conseguentemente ha scatenato, diciamo, le critiche e le levate di scuse della classe dirigente tradizionale. E dopo essere appunto stata costretta a sposarsi, era ancora un'adolescente, Maluma ha dovuto rinunciare a cantare, ma poi successivamente ha reiniziato, forte appunto della sua presa di coscienza, ha sviluppato uno stile che combina la musica tradizionale con i blues, i jazz e anche con la musica elettronica. E ha cominciato a incidere, e successivamente il primo pezzo, la prima canzone che ha inciso, questa Bibi Abethiou, ha continuato con temi che affrontavano controversie, come per esempio la vita coniugale, la povertà, la disuguaglianza, ed è stata censurata nel suo paese, appunto in Mauritania, fino ai primi anni 90. Tant'è che ha dovuto continuare a cantare all'estero. Poi il divieto è stato tolto e è ritornata in Mauritania a cantare, e ha acquistato immediatamente popolarità, soprattutto fra le giovani generazioni. Tant'è che il suo quarto album, che è quello più recente, si intitola Kunu, che è del 2014, comprende testi che esprimono le sue opinioni sui diritti umani e il posto delle donne nella società. E accanto, diciamo, a questi aspetti più prettamente politici, Maluma ha anche combattuto per salvaguardare la musica del suo paese, sollecitando il governo a creare le scuole musicali e visto che il governo appunto non le creava, ha creato la sua propria fondazione a sostegno del patrimonio musicale e anche un festival di musica. Questo, diciamo, da un punto di vista sociale. Poi, ritornando appunto all'aspetto politico, ha iniziato a fare campagne, si è prodigato per campagne per una maggiore democrazia in Mauritania. E di lei vi facciamo ascoltare. Il pezzo si intitola Yarab, e questo appunto è Maluma. Yeah. Negli ultimi anni il Corno d'Africa è diventato sempre più strategicamente importante ed ambito. Una mappa della regione che costeggia il Golfo di Aden e il Mar Rosso rende ben visibile la corsa al controllo della zona attraverso la presenza di basi militari di potenze che si confrontano in Medio Oriente, ma non solo. La mappa mostra chiaramente anche la preoccupante accelerazione avvenuta a partire dal 2015 e soprattutto nel corso del 2017. Tra i più attivi si sono dimostrati gli Emirati Arabi Uniti, il cui primo intervento nella zona risale già dal 2010, quando iniziarono a dare assistenza per la sicurezza a Puntland, una delle regioni federali della Somalia, posta di fronte alle coste yemenite. Gli Emirati Arabi Uniti ormai insomma, iniziano a essere qualche anno che stanno bombardando lo Yemen, quindi per loro diciamo è un punto strategico quello. Infatti oggi gli Emirati Arabi Uniti hanno ben 5 basi militari sulla costa africana e nelle isole adiacenti. 2 sono state aperte nel 2015, rispettivamente nel porto di Assab in Eritrea e a Mogadiscio in Somalia. Le basi sono entrate in funzione in concomitanza con lo scoppio della guerra yemenita, infatti, come dicevo poco anzi, che stanno combattendo nella coalizione guidata dall'Arabia Saudita. L'anno scorso ne sono state aperte altre 3, a Berbera, nel Somaliland, nell'isola di Perim, a guardia dello stretto del Bab e Manbeb, e nell'isola di Socotra. Una sorta di cordone che garantisce il controllo praticamente totale sulle coste dello Yemen e dunque anche l'intercettazione di eventuali rifornimenti che i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran e, secondo i sauditi, dal Qatar, che infatti proprio per questo l'estate scorsa è stato sottoposto ad un blocco economico e all'isolamento politico, che in realtà sono misure che sono riuscite solo parzialmente. Un altro paese particolarmente attivo in questa regione è la Turchia, che come sappiamo anche per altri motivi, da quando c'è Erdogan al potere, Erdogan ha delle mire espansionistiche chiare, lo dimostra quello che sta facendo nella Siria del Nord, ma anche in questa zona, nel Corno d'Africa. E infatti la Turchia, che è antagonista dell'Arabia Saudita nei conflitti medio orientali, è alleata del Qatar, il cui emiro condivide l'ideologia politica dei fratelli musulmani, a cui si richiama appunto anche Erdogan. Nel settembre dell'anno scorso Ankara ha aperto la più grande base militare all'estero a Mogadiscio, con l'obiettivo ufficiale di addestrare i militari dell'esercito somalo. In dicembre importanti accordi militari sono stati stipulati anche con il Sudan, altro paese appunto che si ispira all'Islam politico dei fratelli musulmani. Di questo si è molto parlato della base militare a Suakin. Suakin perché Suakin era un antico porto sulla costa sudanese del Mar Rosso, il porto da cui partono i traghetti per Gedda, importante appunto porto saudita. La rotta è usata soprattutto durante il periodo del pellegrinaggio alla Mecca, che nel mondo musulmano, come sapete, riveste una straordinaria importanza sociale, politica, economica soprattutto e religiosa. Le voci non confermate né da Ankara né da Khartoum sono bastate però a cominciare a esacerbare le tensioni che già sono alte nella regione. Sta di fatto che all'inizio di quest'anno le autorità turche hanno approvato un rafforzamento della loro presenza militare all'estero, in particolare nelle basi africane, mentre delegazioni turche si recano periodicamente a Suakin, questo porto di cui si diceva, ufficialmente per discutere del restauro degli antichi edifici, che in effetti sarebbe uno dei posti più affascinanti e ricchi di storia del Sudan, ma in realtà con mire molto meno sociali, diciamo. Si dice anche che Ankara avrebbe in corso trattative per l'apertura di una base a Gibuti. E proprio a Gibuti risulta evidente come nella zona agli interessi delle potenze regionali si sommano quelli delle potenze che si confrontano sul piano globale. Nel paese, che è piccolissimo, ma in un posto con un'importante straordinaria importanza strategica, si trova, pensate, la più alta concentrazione di basi militari al mondo. Gli Stati Uniti hanno la loro unica base permanente in Africa, vicino alla capitale, nell'immediata periferia della capitale, a Camp Le Monnier, che hanno preso ai francesi. Adesso ci ascoltiamo un pezzo e poi continuiamo con questo discorso. Sì, ci sentiamo un pezzo di Aziz Abrahim. Ci siamo spostati vicino, nelle vicinanze, ci siamo spostati nella Repubblica Sahrawi, tant'è che infatti Aziz Abrahim è nata nel 76 in un campo profugo Sahrawi nella regione di Tindouf in Algeria, dove appunto sono ospitati, è ospitata una delle più grosse concentrazioni di popolazione Sahrawi, diciamo al di fuori di quella è propriamente la regione Sahrawi vera e propria. Tant'è che appunto sua madre si era stabilita alla fine del 75 in fuga dall'occupazione marocchina del Sahara occidentale. Poi sua madre è rimasta a El Aaiun, che è appunto un altro campo profughi nelle vicinanze di quello di Tindouf, dove poi successivamente è morta. E a causa della guerra occidentale, tra l'altro, nel Sahara occidentale, tra l'altro, Aziza non ha mai conosciuto suo padre, che appunto era rimasto anche lui in questa città, in questa zona del Sahrawi, appunto chiamata El Aaiun, proprio per combattere l'occupazione marocchina, per combattere l'occupazione marocchina. E quindi Aziz Abrahim è nata nelle condizioni estreme dei campi profughi, in questo caso sono campi profughi situati in piano deserto, e fin dall'inizio ha usato la sua musica per comunicare la sua anima, il suo sentimento e soprattutto i suoi pensieri di resistenza del popolo Sahrawi. Già all'età di 11 anni ha ricevuto una borsa di studio per studiare a Cuba, dove tra l'altro si sono trasferiti, avendo ricevuto appunto borse di studio, molti studenti Sahrawi. E nel 1995 ha vinto il National Song Contest, che è un festival della cultura nazionale della Repubblica Democratica Araba del Sahrawi. Poi successivamente è entrata a far parte del gruppo musicale nazionale Sahrawi, è stata in tournée sia in Mauritania che in Algeria. A un certo punto, diciamo, quando è diventata un po' più grande, alla fine degli anni 90, ha iniziato anche a effettuare tournée in Europa con il gruppo sempre Sahrawi, chiaramente l'Eyohad, chiaramente in particolar modo in Spagna, ma poi successivamente anche in Francia e in Germania. Alla fine degli anni 90 è tornata nei campi profughi proprio con il pretesto, diciamo, e poi ci è rimasta, ma è tornata proprio per registrare una sessione per la Radio Nazionale Sahrawi con musicisti Tuareg di Taman Rasset. E nel 2007 ha creato un suo proprio gruppo musicale, si intitola Gulilighi Manku, che è composto appunto da musicisti del Sahara occidentale e del Senegal. E appunto, come dicevamo precedentemente, molta di questa musica, molti di questi suoni di questa zona dell'Africa, e così anche il gruppo musicale formato da Aziz Abrahim mescola la musica tradizionale africana, il blues e il rock, utilizzando strumenti che sono sia tradizionali specifici del Maghreb che strumenti, diciamo, dell'Africa subsahariana. Direi ci sentiamo uno dei pezzi più noti, uno dei pezzi in cui esalta, diciamo, la lotta del popolo saharawi contro la colonizzazione dello Stato marocchino. Il pezzo si intitola Laji, lei è Aziza Brahim. شعب الصحراء مظلوم volevo ricordare i social della radio, wombat.noblogs.org è il sito da cui non solo potete ascoltare la diretta streaming, ma trovate tutti i podcast di tutte le trasmissioni che animano questa radio. Poi Radio Wombat ha anche un profilo Twitter che è Radio Wombat FI, e se siete appassionati come noi del continente africano, anche questa trasmissione Uru ha un profilo Twitter che è Uru_RW di Radio Wombat. Se volete comunicare con la radio potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Vi ricordo anche che Uru ha due repliche, una la mattina del lunedì alle 8:30 e l'altra alla domenica alle 23. Sì, e come Uru tutte le trasmissioni di Radio Wombat hanno le proprie repliche, e per tutte le trasmissioni potete consultare il palinsesto proprio sul sito, appunto, wombat.blogs.org, dove appunto sono inserite tutti gli orari delle trasmissioni e le sue repliche. E rimaniamo da un punto di vista geografico sempre nelle vicinanze, ritorniamo in Mauritania per ascoltarci Nuramint Seymali. Nuramint Seymali è una griot mauritana, ricordiamo appunto questa figura, il griot, che è quella sostanzialmente un cantante o una cantante donna che attraverso la musica rievocano, comunque trasmettono quelle che sono i racconti popolari, e in particolar modo i griot sono diffusi in Senegal, in Mali, in queste zone qua giù, però in questo caso appunto Nuramint Seymali è una griot mauritana, chiaramente anche cantante, autrice, cantautrice, appunto scrive le proprie pezzi che cantano e nello stesso momento gli suona anche. E l'altra particolarità, anche se è una particolarità molto diffusa fra i cantanti e le cantanti africane, è che i genitori erano a sua volta importanti figure musicali, sempre appunto della Mauritania, e la madre si chiamava Dimi, era una delle cantanti più famose della zona ed era conosciuta appunto come la diva del deserto, tant'è che Nura ha iniziato il suo percorso musicale iniziando appunto a comporre fin dall'età di piccolissima, all'età di 13 anni, a comporre i testi per la madre, e conseguentemente con l'insegnamento della famiglia è stata in grado di padroneggiare molti strumenti, ma in particolare l'ardin, che è uno strumento a corde di questa zona dell'Africa, uno strumento un po' particolare perché è un'arpa con un numero variabile di archi da 9 a 14 costruiti, ricavate, diciamo, è uno strumento musicale ricavato da una zucca ed è usato appunto dalle griot mauritane femminili. Poi si è accompagnata con un chitarrista, Jeyche Ould Shigali, e ha iniziato a suonare con lui, e sempre il suo aiuto ha formato la sua prima band nel 2004. Con questa band continua a girare, a suonare nei festival di tutto il mondo. Di lei ci sentiamo Nasane. E questa è Nuramint Seymali. E riprendiamo il discorso precedente sulla corsa a militarizzare, a colonizzare il Corno d'Africa, con un dato molto significativo, e cioè l'apertura nell'agosto del 2017 dell'unica base cinese all'estero, nel nord della Somalia, a Tajura, e questo fa capire come questa corsa si gioca non solo sul piano militare, ma anche sul piano economico, naturalmente. Il caso della Cina, infatti, è chiaro: prima di stabilire la presenza dell'esercito, Pechino ha investito massicciamente nella zona in infrastrutture chiave per lo sviluppo dei paesi beneficiari. L'Etiopia e la stessa Djibouti sono state supportate in modo speciale, ma anche il Sudan e il Sud Sudan hanno un rapporto privilegiato con Pechino. In Kenya, scherzando, si dice che quella cinese è ormai una delle principali tribù del paese. Djibouti è per la Cina anche un importantissimo nodo commerciale e per le comunicazioni, destinato a consolidare la penetrazione nel continente, non solo dei prodotti, ma anche dal punto di vista tecnologico e scientifico. Tant'è che da poco, perché noi ci siamo stati tre anni fa in Etiopia, e la Cina stava costruendo la ferrovia che andava direttamente appunto da Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, a Djibouti. Sì, e nello stesso momento aveva terminato quella era la prima metropolitana nell'Africa subsahariana. Dopo appunto quella del Cairo, che era stata costruita dall'Arabia Saudita, la Cina ha costruito la metropolitana di Addis Abeba, è stata messa in funzione proprio nel mese in cui, diciamo, abbiamo preso uno dei primi treni. Ecco, e quindi sì, questo aspetto è fondamentale per capire l'interesse che si sta addensando in questa zona. E infatti con questa sta rafforzando praticamente la Cina una posizione economica che già non ha uguali nella zona e un'influenza naturalmente di conseguenza diplomatica sempre crescente. Non è un caso che abbia partecipato per la prima volta ad una missione di pace dell'ONU proprio in Sud Sudan e che si sia proposta per mediare nel conflitto di confine tra Djibouti e l'Eritrea dopo il ritiro delle truppe di interposizione del Qatar la scorsa estate. Appunto, parlando proprio del Qatar, ingenti anche gli investimenti del Qatar nell'area e particolarmente in Sudan, dove sta finanziando tra l'altro una serie di villaggi e comunque sta investendo economicamente, diciamo. Questi investimenti, gli investimenti qatariani praticamente, si sommano a quelli dell'Arabia Saudita e degli altri paesi petroliferi del Golfo, quasi in una partita a scacchi tra chi investe di più in cambio di una maggiore influenza. Indicativa la situazione del Sudan, che sta tentando di rimanere in equilibrio tra le due coalizioni che si scontrano in Medio Oriente, partecipando alla guerra in Yemen nella coalizione saudita, ma rafforzando anche i legami con la Turchia e la Russia e tenendo vivi e cercando di tenere vivi i legami anche con il Qatar. Naturalmente la presenza di tutte queste nazioni contribuisce a aumentare le tensioni in una zona che insomma è già instabile, stiamo parlando di Eritrea, Somalia, eccetera, e quindi insomma tutti un po' si stanno preoccupando per questa situazione perché potrebbe diventare esplosiva. Sì, noi ritorniamo a quello invece sono che è la gente, che è il popolo, e quello che è la sua cultura, e quella appunto è la sua musica. In questo caso dalla Mauritania ci trasferiamo un po' più a nord, in Algeria, per parlare e per ascoltare Uriah Heish. Uriah Heish è nata a Batna, che è una delle città più importanti dell'area berbera, quindi è una cantante berbera algerina di musica Shaoui. È una musica particolare, perché è una musica di una miscela tra musica Sahrawi, cioè quella di cui abbiamo ascoltato un pezzo precedentemente, e ritmi molto marcati, ritmi atti anche alla danza. E canta in particolare canzoni apprese durante l'infanzia, accompagnate dai bendir, che è un altro strumento tradizionale della zona. Viene suonato in tutto il Nord Africa, così come nelle cerimonie sufi, non solo in Nord Africa, ma dove ci sono le comunità sufi. Rivisita il repertorio tradizionale delle regioni del suo paese, quindi della Berberia, della zona berbera, con testi che parlano appunto della vita quotidiana del sud dell'Algeria, appunto della zona della sua provenienza. È una cantante proprio, è una cantante popolare, una cantante molto, molto apprezzata, e anche ricantata dai berberi e dalle berbere dell'Algeria. Ci sentiamo Vente della montagna, titolo in francese, questo è Uriah Heish. Ci spostiamo per un'altra notizia in un'altra parte dell'Africa e parliamo di petrolio, quindi come immaginerete è sempre un discorso di corruzione, specialmente da parte delle multinazionali. E in questo caso praticamente è successo che un documento PowerPoint presentato dalla compagnia petrolifera ExxonMobil, compagnia petrolifera statunitense, ricordo, di cui è entrata in possesso Long britannica Global Witness. Praticamente in questo documento la corporation nordamericana era preoccupata per le leggi anticorruzione fatte, approvate negli Stati Uniti. In merito tutto questo perché loro volevano acquistare, e poi lo hanno fatto, all'acquisizione del Poco 13, un mega giacimento offshore in acque della Liberia, da tempo oggetto del desiderio delle principali compagnie del settore. Per superare tale ostacolo, cioè le leggi anticorruzioni, praticamente la Exxon ha messo in piedi due complesse transazioni finanziarie nello stesso giorno. Praticamente, in base all'accordo, una società chiamata Perpercoast ha venduto i diritti del blocco petrolifero ad una società canadese registrata alle Bermuda, naturalmente, e che vantava tra i suoi direttori il visconte di Astor, suocero dell'ex primo ministro britannico David Cameron, tanto per non farsi mancare niente. Questa società canadese poi ha venduto subito la maggior parte delle quote alla Exxon, quindi praticamente hanno fatto un giro. I diritti liberiani erano stati originariamente accordati ad una società che si chiamava Broadway Consolidated, prima di essere trasferiti a quest'altra società, la Perpercoast. Gli azionisti di questa Broadway includevano un avvocato conosciuto per essere vicino, diciamo, al ministro e vice ministro delle attività estrattive della Liberia. E qui si chiude il cerchio praticamente. Tant'è che un rapporto dell'equivalente liberiana della nostra Corte dei Conti aveva già segnalato che tutto il processo di acquisizione del giacimento era compromesso da corruzione e influenze indebite. Per i già segnalati timori dell'ExxonMobil riguardo quanto accaduto nel passato, si è resa così necessaria, appunto ha fatto questo discorso del trasferimento in 24 ore per aggirare la legge anticorruzione voluta da Barack Obama e votata dal Congresso. L'ExxonMobil ha pagato per questo giacimento, questo blocco 13, circa 120 milioni di dollari e la Global Witness ha scoperto che il mese seguente il pagamento ufficiale, la compagnia petrolifera nazionale avrebbe versato 210 mila dollari a funzionari locali che hanno autorizzato l'affare. E beh, noi ritorniamo ai suoni dell'Africa, alle voci femminili dell'Africa del Nord. In questo caso parliamo di Setona, una cantante sudanese di Kordofan. Kordofan è una città particolare perché in passato Kordofan è stato un regno leggendario, la parte più orientale all'interno di una serie di regni africani si estendevano dal Senegal al Mar Rosso e per secoli, fino ad ora sostanzialmente, Kordofan è stata un'area attraversata dal Tariq Sudan, un'antica via per il commercio e il pellegrinaggio e quindi uno scambio di beni, di persone e conseguentemente anche di culture e conseguentemente, come sempre, alla cultura è legato anche l'aspetto musicale. E lei ha iniziato una carriera come cantante e musicista, una giovane donna sostanzialmente, e con i suoi zii è stata la fondatrice di una jazz band al femminile già negli anni 50, ma appunto agire come musicista femminile è sempre stata un'indecenza quella società sudanese tradizionale, e quindi la famiglia si era trasferita da Kordofan a Khartoum e Setona, è cresciuta in un quartiere dove abitavano persone provenienti da tutti i paesi dell'Africa, dalla Nigeria, lo Zaire, l'Etiopia, così come popolazioni etnie delle regioni meridionali occidentali del Sudan. E insieme al marito ha lavorato come insegnante, ha cominciato a collezionare musica proprio da tutto il paese, e quindi i suoi suoni, le sue composizioni traggono ispirazione, traggono diciamo appunto vengono da un ampio spettro di ritmi e di melodie africane, e appunto combina con facilità le influenze di tutte quelle persone che vivono, che attraversano Stretta Ricca, Sudan, questa sorta di via carovaniera che nonostante appunto non ci siano più le carovane come prima, comunque è una sorta di threat union, di percorso, e unisce etnie e culture diverse. E all'interno di questa situazione lei ha continuato a portare avanti le sue cose, quello a cui crede, e ha imparato a lavorare per esempio i tatuaggi con l'enne, e conseguentemente anche questo può sembrare una cosa normale, diciamo, però in una società come quella sudanese, o almeno come quella sudanese tradizionale, in questo caso l'enne, il tatuaggio, che quindi sotto certi aspetti viene esposto, è una, come dire, un'indecenza, ecco, perché appunto le donne devono essere coperte e via dicendo, insomma. E lei si è trasferita appunto in Sudan, c'è questo forte rapporto con l'Egitto, tant'è che ora Setona vive al Cairo, e diciamo ha fondato una fondazione, si prende cura delle giovani donne, e nel momento in cui queste giovani, diciamo, si sposano, diciamo, viene preparato in una forma comunitaria da tutte le componenti di questa fondazione, tutti gli aspetti matrimoniali e tutto ciò che concerne diciamo la vita con il marito, non il compagno. Però ecco, va chiarito, cioè questo aspetto peculiare, appunto, che preparando, diciamo, tutto questo queste cose in un ambito femminile, fa in modo che la donna abbia più potere all'interno della famiglia di quello che gli è dato, diciamo, tradizionalmente. E quindi è una tradizione che era parte appunto di questa zona da cui lei proviene. E vi facciamo ascoltare un pezzo che si intitola Sawani, questa è Setona. أشرقت في عيني ثواني غبت زي لمح البصر أشرقت في عيني ثواني غبت زي لمح البصر لا عرفت طيب لا في الأفق لا عرفت حلم جاب العبر في عيني ثواني غبت زي لمح البصر أشرقت في عيني ثواني غبت زي لمح البصر لا عرفت طيب لا في الأفق لا عرفت حلم جاب العبر الفكر تجدر مرات أقول نفحات عليل خلت نسيم الليل عطر مرات أقول صارت ملاك زارتني في أبهى الصور شرقت في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر أشرقت في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر لا عرفت طيب لا في الأفق لا عرفت حلم جاب العبر أسأل عليك مين ولا فين أصيف تواصيف تبتسر أسأل عليك مين ولا فين أصيف تواصيف تبتسر حتى أسأل عن نجوم معروف عن نسمة خبر حتى أسأل عن نجوم معروف عن نسمة خبر صيبي اختفي رعش السعادة وقلبي بالحب انحسر في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر أشرقت في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر لا عرفت طيب لا في الأفق لا عرفت حلم جاب العطر prossimo e ultimo pezzo che ascoltiamo stasera è di un'altra cantante sudanese nata nel 1971 a Khartoum Khartoum che è dove si scontrano, incontrano praticamente i mondi della musica islamica nubiana e nera africana lei viene da una famiglia di musicisti e combina le tradizioni musicali del Sudan e del Sud Sudan. Di Rasha ci ascoltiamo Aguis Magashik Biman. شفنا في طول الزمن صور بدري وداخل كمن والله نور عين ونور الزمن الأنوار يتزاحمن وفي خدودك أخذوا الأمن ومن فاهك يتقسمن بروق في بروق يتقسمن والله نور عين ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور الزمن دي الدنيا مجنة عدن وشفنا ملاك لابس بدن نور عيني ونور الزمن إنسان لكن مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أم ندن هيبة أسد في عيون شدن والله نور عيني ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور زمن الأخد جن والله نور عيني ونور زمن جسمك بطيب عين إذا نسمت لك عرجن يبال الجو يتأرجن والأنفس يتهيجن والله نور عيني ونور زمن أقسم حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عيني ونور زمن أقسم حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عيني ونور زمن أقسم حاسنك بمن interpretato a Rasher all'ultimo pezzo di questa 49esima puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano. E vi lasciamo con un annuncio, un invito a partecipare al corteo che si terrà domani, sabato 7 aprile, con partenza, un ritrovo davanti a Lungarno Vespucci alle 15.30, un corteo di solidarietà e a fianco della resistenza curda. E per questo corteo ci sarà anche la diretta di Radio Wombat, quindi vi potete streamingizzare, cioè ascoltare in streaming dal sito wombat.blogs.org da domani alle 15.30 la diretta del corteo, oppure sintonizzarmi su M1359, non in tutta Firenze ma in diverse zone della città, si sente bene, e cercheremo di farvi sentire ancora meglio. E niente, ci sarà anche la diretta a Twitter sul profilo della Radio Wombat. Vi salutiamo, ciao ciao.